Componimento 148 del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Non Tesin, Po, Varo, Arno, Adige, Tebro, Eufrate, Tigre, Nilo, Ermo, Indo e Gange, Tana, Istro, Alfeo, Garona e il mar che frange, Rodano, Ibero, Ren, Sena, Albia, Era, Ebro, non Edra, Abete, Pin, Faggio o Genebro, poria il foco allentar che il cor tristo ange. Quanto un bel rio ch'ad ognor meco piange, co l'arboscel che rime orno e celebro. Questo un soccorso trovo tra gli assalti, d'amore ove convenca armato viva, la vita che trapassa a sì gran salti, così cresca il bel lauro in fresca riva, e ch'il piantò pensier leggiadri ed alti, nella dolce ombra al suon de l'acque scriva. Fine del componimento.